osservare i riflessi sconosciuti di un uomo e abbandonare il tuo vestito su una sedia che si muove verso l'abisso, si scioglie e vola via. Scioglie e vola via. Thank you.